Bene, allora direi che possiamo iniziare intanto, poi ci raggiungeranno anche altre persone e partiamo con questa presentazione del libro. Sono molto contenta che Giacomo Sartori sia tornato qui al Centro Trevi dopo il periodo del Covid, insomma di questi anni di separazione, ecco. E ci ritroviamo con l'autore, un autore che vive a Parigi ma che non ha scordato il legame col Trentino Alto Adige, anche in particolare con Bolzano, perché diciamo che si rideva prima, però dall'inizio anche con la biblioteca provinciale Claudio Augusta si è innescato un bel dialogo e devo dire in questo senso anche Giovanni Accardo, che è qui con noi questa sera, ci ha dato una mano. Insomma, ci sono state tante belle occasioni. I libri che vedete qui sono i romanzi precedenti e direi che quasi tutti li abbiamo presentati, no? Sì, insomma, in biblioteca. Quindi è sempre un piacevole e graditissimo ritorno a scoprire che Giacomo continua a scrivere sempre con delle nuove idee, con la sua cifra stilistica che è molto apprezzata. E quindi questa sera invece conosciamo appunto un nuovo libro, La fisica delle separazioni in 8 movimenti. Come detto, è qui con noi anche Giovanni Accardo. La cornice, come vedete, è una bella e piacevole cornice dedicata a Maria Gardena, ovvero all'architetta Gabloner, che era appunto della Val Gardena, ha lavorato nel cinema, e abbiamo qui questa mostra che durerà qualche settimana dedicata a lei. E siamo contenti, insomma, di poter così anche celebrare una figura femminile qui nell'Alto Adige. E poi vi invito anche a tornare mercoledì prossimo, se avete piacere, alle 17.30 qui per conoscere la raccolta di poesie di Nico Menna insieme ad Italo Ghivigato. Il titolo è Istantanee Schnappschüsse. Ma ora sentiamo dalla voce di Giacomo Sartori e Giovanni Accardo il nuovo libro La fisica delle separazioni in 8 movimenti. Grazie e buona serata a tutti voi. Grazie. Questo ci sarà un modo. Mi spiace, sì, questo è un... Non c'è un tutorial. Ma forse così. Sì. Eccolo, perché tenerlo in mano è un po' scomodo. Allora, buonasera a tutti, grazie Valeria. In effetti era da un po' che non presentavo un libro qui al Centro Trevi, ne abbiamo fatti tanti. Di solito quando non posso io c'è Bruna Dall'Lago Venere, che è la sua presentatrice ufficiale, quindi in questi anni ci siamo alternati. Appunto, come diceva Valeria, Giacomo Sartori vive a Parigi, però è trentino di nascita, ha pubblicato tanti, veramente tanti libri. E il primo, se non ricordo male, io forse i primi tre riesco a ricordarmeli, poi dopo la mia memoria insomma fa qualche fa un po' cilecca, ed è del 96, Di solito mi chiama il giorno prima. Vai. Secondo libro è Tritolo, del 99, ed è un romanzo legato a questa terra. E poi ricordo Anatomia della battaglia, che forse è il libro in qualche modo della celebre collana Indicativo presente di Sironi, che forse ti ha fatto conoscere al grande pubblico, e poi un alternarsi di romanzi, racconti e anche poesie. Quindi uno scrittore molto, molto prolifico, fa parte anche della redazione di un importante blog letterario che è Nazione Indiana, credo sia stato tu uno dei fondatori. No, fondatore no, però ci sei quasi dall'inizio. Adesso ho visto che avete fatto una festa a Parigi. Mm-hmm. Per il ventennale. E quindi molti molti libri. Fisica delle separazioni in 8 movimenti è l'ultimo appena arrivato, e devo dire che è un... Allora, io intanto lo chiamo libro perché poi vediamo con Giacomo se è giusto chiamarlo romanzo, perché comunque, benché in 8 movimenti, gli 8 movimenti adesso li leggiamo quali sono 8 storie che ovviamente accomunati dal tema della separazione, però hanno un personaggio, Mila, che ritorna più o meno in tutti, più l'io narrante in prima persona, e quindi otto movimenti che alla fine compongono una storia per certi versi unitaria, benché, come vedremo, ambientata in, fondamentalmente in tre luoghi geografici. Forse è meglio che io prenda gli occhiali, così posso leggere per evitare di dire scempiaggini. Allora, gli otto movimenti sono: imparare a dimenticare, non esitare a uccidere, la risata ci sta perché, come vedremo, è un libro che ha una cifra tragicomica. Capire chi lascia chi, tenersi sempre allenati, diagnosticare le vere ragioni, monitorare le parole, cogliere i prodromi e l'arte di voltare pagina. E lo dico subito, io devo dire che spesso negli ultimi anni, soprattutto da quando ho cominciato a scrivere, sono molto, vorrei dire esigente se non fastidioso, faccio fatica a trovare un libro che veramente mi convinca, mi piace, spesso mi fermo a metà. Questo l'ho letto due volte, quindi vuol dire che mi è piaciuto molto. Quindi è un libro che vi consiglio, ringraziamo anche la libreria Ubic che ha portato delle copie, quindi io vi consiglio di comprarlo, leggerlo e gustarvi non solo le storie che hanno veramente, adesso leggerò diverse parti oltre a dialogare, ecco, io non faccio le lunghe introduzioni che uno dice madonna che siamo venuti per sentire Giacomo Sartori, no, adesso gli do subito la parola. E dicevo, è un libro che vi consiglio di comprare, ha una lingua, uno stile veramente incantevole, veramente. Fra l'altro, così un aneddoto personale, non per fare quello che si vuole citare, però avevo curato una collana e purtroppo ha fatto solo due volumi per Edizione Alfabeta, Parole del Tempo, e l'ultimo volume aveva come tema indifferenza, e avevo chiesto a Giacomo di scrivere un racconto, e forse quello stile, questo stile è nato con quel racconto che, tanto lo posso dire, non ci sono gli altri, è il racconto più bello dei cinque, se non l'unico veramente di qualità letteraria, dove c'è uno stile abbastanza nuovo, tutto sommato per te, perché è uno stile appunto molto comico, è una comicità che più che dai fatti io la ricavo dall'uso della lingua. E prima di cominciare a leggere e di entrare nei movimenti, ti devo fare una domanda. C'è un bellissimo libro di Amos Oz, Una storia d'amore di tenebra, che è una storia autobiografica, la storia bellissima della sua famiglia, che fra l'altro arriva in Israele da Odessa, e dice: quando uno presenta un libro, la prima cosa gli chiedo se è autobiografico. E però quello che io invece ti chiedo è, non è tanto se autobiografico, ma come hai lavorato a scriverlo per evitare l'autobiografismo, perché è ovvio che il lettore, soprattutto chi un po' ti conosce, tende a trovarci qualcosa, almeno nei luoghi in cui la vicenda si svolge, benché non siano mai nominate, dopo vedremo, come ti sei confrontato appunto con l'autobiografia. Allora, buonasera a tutti. Funziona? Mi sembra che non funzioni. Forse da accendere? Forse da accendere. Se scopriamo dove. Sì, perché io non so. Ecco, adesso va. Non so molta voce. Allora, prima di rispondere, no, ma questa raccolta si deve quasi a te, nel senso che io avevo intenzione di lavorare su questo tema, no? Come succede spesso con i libri. Vuol dire un'intuizione, un qualche cosa che ti attrae, però poi bisogna trovare anche una forma, no? E avevo provato con un testo lungo al quale avevo lavorato anche diversi mesi, che però non mi soddisfaceva per niente. Invece quando mi avete chiesto il racconto, e che poi la data limite si avvicinava, tutti avevano già consegnato, io non stavo lavorando in un periodo che lavoravo tanto e non l'avevo fatto, no? E poi invece mi sono messo lì e in molto poco tempo, cosa per me abbastanza strana perché di solito rilavoro i testi per moltissimo tempo, mi è venuto il primo il primo racconto del quale hai parlato, che è stato pubblicato nell'antologia che curavi, e che però quello mi ha aperto la via, come spesso succede nelle raccolte dei racconti, no? Si trova un tono e poi si capisce che quel tono lì andrà avanti, no? Ecco, con altri, no? E quello lì mi ha risolto la situazione, perché poi non in poco tempo, però sono riuscito a dire tutto quello che volevo dire. E per quanto riguarda invece i materiali autobiografici, io ho un filone, come dire, autobiografico che non è nato subito, le prime cose non hanno niente a che fare con la mia vita, però appunto con l'anatomia della battaglia, che è del 2005, ispirato alla storia di mio padre, che è stato fascista, poi è repubblichino e che poi è sempre stato vicino al movimento sociale, insomma non ha mai rinnegato la sua visuale, e lì ho affrontato per la prima volta il tema, ho lavorato, diciamo, con i materiali della mia esistenza, cosa che ho fatto anche poi con una raccolta di racconti, autismi, in chiave più ironica, però ecco, diciamo, per esperienza personale i dati autobiografici sono molto sempre mediati, prima di tutto c'è una scelta, no? Di quello che si dice, non si dice, e poi sono molto molto molto rielaborati, e è paradossale la cosa, perché questa cernita che si fa e questa come dire, anche trasformazione potrebbe far pensare a un allontanamento dalla verità, no? E invece spesso proprio anche inventando, anche scostandosi dalla realtà fattuale, si trova una verità più vera, no? che è letteraria, che però è un qualche cosa che, no? Importante. Quindi, diciamo, per riassumere tutto ciò, per esperienza so che c'è molto di realissimo, però anche ci sono dei dati, soprattutto di come dire, molto molto non detto, o episodi che si fondono tra di loro o che vengono spostati nel tempo, quindi appunto sarebbe, ma com'è normale che sia, no? Ecco, a proposito di autobiografia, il libro si svolge in tre luoghi che però non vengono mai nominati. Il luogo, diciamo, forse dove prevalentemente si svolgono le vicende è Parigi, poi naturalmente c'è Trento e c'è anche l'Algeria, dove il protagonista conosce Mila, quella che poi diventerà la moglie. Ecco, tu hai scelto appunto di non nominare nessun luogo, sempre in quest'ottica dell'allontanamento autobiografico? Ma sì, anche nominare è sempre molto delicato, perché per esempio Parigi è talmente carica di significati, no? Ciascuno di noi si nomina Parigi, ha in mente, è un qualche cosa che svia un po' da quello che voglio dire io, non è importante che sia Parigi o sia Londra, no? per molti aspetti, io credo che spesso i nomi tolgano qualche cosa, e addirittura nella realtà biografica la persona di cui parlo l'ho conosciuta in Tunisia, perché ho lavorato in Nord Africa, come sia in Algeria che in Tunisia, come agronomo, e l'ho conosciuta in Tunisia, e lei era, come dite, aveva passato i primi 10 anni della sua vita in Algeria, come francesi che vivevano nell'Algeria ancora francese prima dell'indipendenza, e quindi ecco, questo è un esempio in cui ho fuso i due paesi per semplificare, perché non aveva un grande senso entrare nei dettagli, diciamo. Allora, il protagonista di queste storie sostanzialmente non fa altro che ricordare ossessivamente ciò che in verità vorrebbe dimenticare. E comincia così la prima storia, o il primo movimento, come è giusto dire. Quando si è vissuti tanto assieme ci sono moltissime cose da dimenticare. Bisogna dimenticare i piedi, con i loro vezzi da piedi timidi ma anche fieri e insomma struggenti. Erano piedi che amavano il contatto con il cemento e i pavimenti freschi, che adoravano il sud e l'estate. Del resto, a pensarci bene, anche la loro conformazione aveva qualcosa di ineluttabilmente umano e commovente. E poi ancora, finita una relazione va dimenticato tutto in maniera sistematica e rapida. A far bene dovrei dimenticare il suo sorriso, sarebbe una gran bella cosa sbarazzarmi una volta per tutti di quel suo modo di mostrare ogni volta i denti. Uno si domanda che bisogno c'è di mostrare tutti i denti ogni volta che si sorride, anche considerando che lei, pur non essendo di alta statura, ha dei denti belli grandi. Mica siamo dal dentista, verrebbe da dire, si può esprimere il proprio gaudio anche senza abbaiare ogni volta il mondo con la propria smagliante dentatura, senza metterci tutta l'anima. Lo so che dovrei ricordare i litigi incessanti, le parole micidiali e le giornate cruente o anche solo sordide. Su questo ha perfettamente ragione la mia nuova compagna. Bisogna dimenticare i momenti indimenticabili passati insieme. Quindi, nel momento in cui il protagonista elenca le cose da dimenticare, non fa altro che di fatto ricordarle ed elencarle. E questo crea subito una sorta di cortocircuito, perché il protagonista ha questa donna che vedremo è molto importante, è stata molto importante nella sua vita, ma anche una nuova compagna che non ha piacere a sentirgli ricordare, ma per lui proprio ricordarlo è il modo di dimenticare. Questo naturalmente crea l'effetto comico del libro. Va dimenticato tutto. Per fare una cosa ben fatta bisogna dimenticare tutto, bisogna soprattutto dimenticare quel senso di essere accolti a scatola chiusa, quel balsamico sentimento che non si sarà mai abbandonati qualsiasi cosa succede, anche se certo le cose non sono facili. Si può dimenticare il passato, allora uno si chiede e ti chiedo? Questa è la tipica domanda che non mi pongo, nel senso che io sono un narratore, no? e credo, hai parlato di prolificità, in realtà sono solo anziano e nel tempo ho scritto tanti libri, perché ho cominciato prestissimo, però anno dopo anno i libri si sono accumulati, però il mio ritmo non è il ritmo forse nato di chi pubblica ogni anno un romanzo, ogni 2 anni, di solito ci metto 4-5 anni per scrivere un romanzo. E quindi come dire, io quello che ho da dire lo dico sotto forma di storie, no? Anche qui è una cosa strana, perché sostanzialmente quello che dico non preesiste alla scrittura, no? Non so cosa dirò, come dire, se uno di voi mi avesse chiesto di parlare di questa persona della quale parlare il libro, naturalmente ne avrei parlato con piacere, avrei potuto parlarne diffusamente vista la sua importanza, abbiamo vissuto anni e anni assieme, quindi. Però poi le cose che vengono fuori nella scrittura sono altre, no? E quello che mi affascina assolutamente nella pratica dello scrivere, perché da questa concentrazione, no, quando si scrive si è lì da soli, e cioè, a me di persone come che mi vengono a marcia in più, mi piace parlare, no? Mi piace discutere, però lì trovo trovo anche delle teorizzazioni come quella di cui hai letto adesso, però che però potrei dire quasi che non preesistono nel mio pensiero, no? Le trovo lì in quella, e dopo naturalmente le assumo, come dire, poi posso parlarne, però ecco, come dire, non è un libro, non è un saggio sulla separazione. Io parlo rielaboro appunto questi miei materiali personali, però appunto senza una, direi quasi addirittura senza un piano cerebrale preciso, che anche lì non vuol dire che non analizzi, anzi molto severamente quello che viene fuori dalla scrittura, no? Anzi è sempre un vai e vieni tra giudicare se stessi e giudicare la frase che si è appena scritta, quindi c'è anche un aspetto cerebrale, anzi presentissimo, importantissimo, però un vai e vieni tra questo più piano intuitivo e quello invece di più razionale. Un po' la razionalità può dire no, questa parola non va bene perché evoca un qualche cosa che non voglio tirare in campo, quindi la cambio. C'è assolutamente, però diciamo c'è anche la nascita del testo non è nella cerebralità. Diciamo, come vedremo, sono tre le separazioni di cui si parla in questo libro. La prima, di cui stiamo già parlando, è appunto quella del protagonista, dalla moglie, da Mila, a cui in verità lui pensa con un molto amore, e appunto questo crea gelosia nella nuova compagna. Allora, prima di farti la prossima domanda, leggiamo questa parte. A sentire la mia nuova compagna, io penso troppo a Mila, che lei chiama impropriamente tua moglie, quando non è più mia moglie, visto che abbiamo divorziato, triste cerimonia di cui ricordo bene gli imbarazzi e l'atmosfera di disfatta, una specie di lutto senza cadavere, visto che non c'era dato di piangere il nostro legame ormai scappato via, e le emozioni viravano allora verso il malumore e la stizza. Tanto per cambiare, io non stavo bene e mi ero imbottito di codeina. A sentire lei io penso ancora a mia moglie e parlo solo di mia moglie e la difendo sempre. Secondo lei non è normale, non dovrei pensarci più visto che la nostra relazione è affondata negli abissi. E anche secondo la legge non siamo più legati. Secondo lei non va affatto bene continuare a dissotterrarla come faccio io. Anche lei ha avuto altre relazioni, ma non sta sempre lì a pensare a quelle, non parla sempre di quelle, o insomma sottintende quella, mentre io continuo a rimbangare perché non ne sono uscito, perché dentro di me non mi sono davvero separato da mia moglie. Dentro di me tengo le gomene attaccate alle vite del mio passato. Non mi crede quando le dico che è esattamente il contrario, che faccio di tutto per dimenticare, che non scordo un solo minuto che devo e voglio dimenticare, che faccio degli esercizi per indebolire ulteriormente la mia memoria, come ben sa, aiutandomi con una dieta povera di proteine e ricca di alcolici. Allora, come vedete, il tono è molto, molto ironico, anche autoironico, però potremmo alla fine definire questo libro sì un libro sulle separazioni, ma in verità un libro d'amore. Sì. Nei confronti proprio delle tre persone, vedremo quali sono le altre due, con cui il legame si è interrotto per diverse ragioni, ma in questo ricordare c'è la grande forza dell'amore. Sì, lì è l'elemento autobiografico, nel senso che parlo di due separazioni, una prima ragazza con la quale sono stato adolescente molti anni, ho avuto questi due rapporti lunghi, poi un altro rapporto lungo con quella che poi è diventata mia moglie, siamo stati assieme vari decenni, e in tutti e due i casi la separazione è stata molto molto dolorosa, nel senso che appunto c'era ancora affetto, le cose non funzionavano più, però c'era molto affetto da tutte e due le parti. No, credo che questa capacità di incapacità di separarsi, no? Potrebbe essere anche interpretata psicanaliticamente, no? E credo che non andrebbe tutto a mio vantaggio, no? Non è che, però diciamo ognuno queste cose le vive in maniera molto molto molto diversa, però appunto quello che, come dire, quello che mi piace nella scrittura è poter mettere assieme tanti piani diversi, no? Cioè, io sono un grande lettore, lettore di psicanalisi, nella psicanalisi non mi interessa soltanto il piano della teoria, però la profondità, io credo veramente che i sentimenti umani, se qualcuno si avvicina alla realtà dei sentimenti, lo troviamo lì, lasciando stare la letteratura dal punto di vista più teorico, no? E come dire, però nello stesso tempo in questo libro c'è la storia, no? Perché ci sono dei riferimenti anche alla come dire, ai tempi in cui succedono questi fatti, e c'è, come dire, c'è anche un piano sociologico, no? Ci sono molti molti molti piani diversi, e c'è anche, appunto, c'è anche l'umorismo, no? che quello ci allontana dalle interpretazioni più razionali, più cose. Quello che mi diverte è appunto poter mettere un po', poter mettere assieme tutto ciò, no? Come dire, io sono un grande lettore di saggi, soprattutto con l'età. Prima leggevo molta più finzione, adesso molti più saggi, però io non sono un saggista, no? Come dire, so che non varrei niente come mi serve come informazioni, come metodo di interpretazione poi della vita delle persone, trovo degli strumenti che mi servono, che però non saprei, ma so che altre persone li maneggerebbero molto meglio di me, no? Però ecco, poi queste cose credo che poi vengano fuori, zitte vengano fuori, c'è tutto ciò, no? Però rielaborato alla mia maniera, e appunto con c'è anche un aspetto forse più poetico, no? Appunto questo vai e vieni tra registri diversi, tra toni diversi, e tra anche interpretazioni diverse. Ecco, tu hai usato il termine profondità, che è un termine assolutamente pertinente, perché sì, c'è questo tono comico, ma il tono comico scaturisce proprio da questo continuo attrito che si viene a creare tra i piani della realtà, e che è di fatto un profondo analizzare ed autoanalizzarsi con domande che sono anche paradossali, e questo suscita l'effetto comico. Il terzo movimento si intitola Capire chi lascia chi. Quando ci si separa, dopo essere stati molto tempo assieme, è difficile capire chi dei due lascia l'altro, perché le cose sono sempre più complicate di quello che sembra, e chi lascia, o insomma ha l'apparenza di lasciare, può essere costretto in realtà dall'altro, e quindi è quest'ultimo, il lasciato, l'autentico lasciante, a meno che la faccenda non sia ancora più intricata. Spesso succede anche questo, e chi lascia con l'apparenza di essere lasciato, l'effettivo lasciante, si è a sua volta manipolato da chi, conoscendolo più che bene, ha messo in atto una strategia ben barocca, costringendolo a lasciarlo. E insomma, il vero regista della separazione sia in definitiva chi ha effettivamente lasciato, dando però a credere all'altro il lasciato, con la presunzione di lasciare, di averlo menato per il naso. Allora, qui c'è ovviamente una bellissima costruzione narrativa, ma si sente quello che hai detto prima, la tua formazione saggistica, e ci mette di fronte appunto a quanto sia complicato questo tema delle separazioni al plurale, perché, come dicevo prima, la separazione non è soltanto dalla moglie, ma c'è una separazione che tutti noi abbiamo affrontato, o comunque che si affronta nella vita, che è la separazione dalla madre. Infatti il secondo movimento, Non esitare a uccidere, uno pensa al femminicidio, pensa, dice, questo adesso ci racconta che ha ucciso la sua fidanzata o ex moglie, no, invece comincia a un attacco fortissimo. Io ho ammazzato mia madre una notte stellata ad inizio gennaio, però poi leggendo la storia tutto questo ha una sorta di capovolgimento, perché c'è sì la morte della madre, ma si tratta di una forma un po' indiretta di eutanasia, una madre malata terminale che aveva chiesto ai figli di essere sedata, come spesso succede, ahimè, e parlo anche per esperienza personale, pensando a mia madre, per accompagnarli proprio alla fine di quei dolori. E questa separazione, separarsi dalla madre è sempre molto più difficile, molto più che separarsi dal padre. Ieri si parlava con Gilda Policastro a proposito della figura del padre, ma io credo che la forza che ha il legame con la madre è qualcosa di molto più forte. Però se con questa madre si è avuto un rapporto anche un po' difficile, la separazione è ancora più complicata, se non più dolorosa. E prima di chiederti di questa separazione vorrei leggere un pezzo che è molto bello e che ci dà conto di quello che io ho detto, ma tu l'hai detto con le parole della letteratura, che naturalmente sono molto più efficaci delle mie. Sono rimasto solo con lei, per un po' assonnecchiato, come aveva fatto per gran parte della giornata, respirando con la bocca aperta. Io pensavo che la sera seguente non ci sarebbe stata più, e nemmeno quelle dopo, e ancora prima, molto presto, non sarebbe più stata cosciente. Non ci sarebbe più stato modo di parlarle, di entrare in contatto con gli sguardi, mai più. Faticavo a ricacciare giù le lacrime, mi aiutavo dicendomi che non era il momento di pensare a me. Dovevo piuttosto cercare di approfittare di quegli ultimi istanti. Come tante altre volte in quelle settimane avrei voluto che mi dicesse qualcosa di intimo, che mi lasciasse un qualche messaggio, che scambiassimo un paio di frasi di reciproca stima, di incoraggiamento per i nostri rispettivi futuri, un ringraziamento, un addio, una benedizione. Anche solo una parola al limite, qualcosa che compensasse la faglia che ci aveva separate anche quando negli ultimi anni ci eravamo un po' riavvicinati, e che mi aiutasse a venire fuori da quel periodo così difficile con Mila, che non a caso non era lì. Avevamo avuto uno scontro molto violento, venendo quasi alle mani. Nonostante la situazione di mia madre, aveva deciso di tornare nella capitale dove vivevamo. Era l'ultima opportunità che ci restava, poi sarebbe stato troppo tardi. Ma lei sonnecchiava, si lasciava cullare dalla sua malattia, sulla quale aveva finalmente la meglio. Aveva ripreso in mano le redini della sua esistenza per farla finire. Ecco, trovo queste due pagine di una bellezza struggente e di grande intensità, e veramente ti faccio i miei complimenti per come sei riuscito, con le parole più pulite e più efficaci, a raccontare una relazione di dolore, di amore, appunto, come dicevamo prima, di come le relazioni siano sempre estremamente complesse. Sì. Questo racconto esisteva prima, l'ho innestato qui, è scritto qualche anno fa, è pubblicato da Nuovi Argomenti, no? Uh-huh. E poi mi sembrava che ci stesse bene, quindi l'ho innestato. Infatti il tono è un po' diverso da quello del primo racconto, sì, con le frasi, sì, lunghe, che per me non, sì, è un po' una novità, qui è più legata alla mia scrittura precedente. Ci vuoi dire qualcosa su questa altra forma di separazione, quella dalla madre? Sì, io ho sempre molto difficoltà, sì. Ho sempre l'impressione di aver detto quello che avevo da dire nel testo, quindi leggo più volentieri di se invece preferisci leggere qualche altra cosa tu, fai come. Sì, diciamo, appunto, era un rapporto non difficile, nel senso che poi si era anche appianato, però diciamo c'era qualcosa che ci impediva di avvicinarci, per cui per me era sempre molto doloroso vederla, che poi, come dire, niente drammatico, però rimanevo come dire sempre con una insoddisfazione, no? Di non averle potuto dire le cose che per me erano importanti, e questo è durato appunto fino alla fine. Quindi è più difficile separarsi da una persona, no? Credo che tutti noi abbiamo esperienza in questo campo, quando quando non ci si è detti, no? Quello che c'era da dire. Era molto bello avere il tempo, no? quando c'è la morte di mezzo, di salutarsi, no? di dire le cose importanti, per cui per me è una ferita ancora aperta, no? Questo fatto di non essere riuscito con lei a parlarci veramente, perché era troppo presa da se stessa, dalle sue difficoltà, dalla sua esistenza non facile, da tante altre ragioni. E quindi ecco, ho cercato di dire questo. E poi c'è, benché abbia uno spazio un po' quasi sotterraneo, nel senso che ci sono a un certo punto due separazioni che vanno un po' in parallelo, una è quella dalla moglie Emilia, una da questo amore giovanile che si capisce che si svolge nella città di origine del narratore, su cui poi torneremo, con questa ragazza che odorava di pane e gelosa come un riccio, viene definito. E questa è una separazione che ha un altro significato, perché in qualche modo è anche la separazione da una città, da una terra con cui anche con questa terra il rapporto è conflittuale, e quindi questa separazione forse in un certo momento è stata vissuta sicuramente dolorosamente, però forse è stato un bene, è una separazione che ha permesso al protagonista, una separazione liberatoria da molti punti di vista, o no? Sì, senz'altro. Senz'altro sì, anche lì devo confessare che ho un rapporto un po' ambivalente col Trentino, perché ci torno, in realtà ho sempre mantenuto una parte del mio lavoro in Trentino, quindi in tutti questi anni sono sempre tornato, pur facendo base a Parigi, ho avuto una parte del tempo, soprattutto l'estate, concentravo il lavoro, poi venivo e con un rapporto un po'. A me piace molto Thomas Bernhard, no? perché nel suo parlare male dell'Austria, no? io sento l'affetto, no? In realtà già una la veemenza implica che c'è un grande legame, perché sennò non si è veementi, no? L'odio stesso, come ci insegnano gli psicanalisti, va a braccetto con l'amore, no? E quindi mi fa sorridere sempre le invettive di Bernard, no? che dice le peggio cose sulla sua patria, che poi anche poi aveva proibito la pubblicazione, no? In Austria delle sue cose dopo la sua morte. Però è chiaro che lì c'è qualche cosa di risolto, che c'è anche molta molta molta attrazione, e devo riconoscere che c'è un po' una dinamica un po' di questo genere nei miei rapporti con Trentino, nel senso che ne parlo volentieri male, eccetera, però se ci torno vuol dire che c'è anche una grazia, c'è un qualche cosa che mi lega. Però appunto sono contentissimo della mia scelta, che è quella che è andata, come diceva Giovanni, che ha coinciso con la separazione con questa persona, con la quale, che era stata molto importante, quello è stato anche con lei un rapporto lungo. Abbiamo cominciato da molto giovani, però siamo andati avanti quasi 15 anni, quindi nel frattempo erano cresciuti, e a un certo punto io proprio ho sentito che dovevo andare via. E a proposito del rapporto con la città di origine, Trento, il Trentino, ma forse anche poi lo vedremo da un'altra lettura, accanto, che poi non c'è molta invettiva in verità, ma adesso due passaggi li leggo, c'è anche forse il tono malinconico di chi si separa anche dalla propria giovinezza in qualche modo. Lì, nella magnifica città gialla, dove ero riuscito a scappare, non sognavo di riprodurmi, meno ancora di tornare nella cittadina che mi aveva tarpato le ali e portato a una precoce depressione. Ero ben contento della mia borsa di ricerca in quel Bengodi senza inverno, dove la notte le persone vegliavano e ballavano e le strade erano addobbate da festone e di arance. Quindi c'è questo confronto Parigi-Trento, che appunto non vengono, come dicevo prima, nominate. Le nazionali di cui si parla delle arance alla Siviglia, no? Perché finita l'università sono stato borsista un po' a Firenze, e poi sono andato con la borsa del CNR a Siviglia e poi ritorna in maniera netta invece Trento, definita cittadina cattolica via via meno praticante, più ebra di consumismo, pur restando la bacchettona intollerante in una sua inimitabile versione sportiva e salutista. Questo è bellissimo. E a proposito di questa prima separazione dalla fidanzata, è molto bella, e per quello dicevo c'è un tono anche malinconico, che non è appunto quello dell'invettiva aggressiva. La mia prima fidanzata aveva un odore lieve ma pieno, altalenante tra due apici sempre in agguato di gomma per matita e pavimento di falegnameria, che poi nel solleone estivo si condensava in fragranza di pane appena uscito dal forno. Con gli sfregamenti della pelle volgeva poi al bruciaticcio di motorino elettrico sul riscaldato o di trenino, che dir si voglia, per poi virare al salmastro di costa oceanica battuta dal vento e foderata di alghe, quasi di ostrica appena aperta. Questa descrizione della giovane fidanzata è veramente bellissima. E dicevo, vabbè, i due poli della tua vita, i due poli di questa narrazione, Trento e Parigi, rapporto conflittuale con, come sempre accade, con la propria terra, con la terra d'origine, mentre mi sembra più come dire costante il rapporto con Parigi. Qual è il tuo rapporto con Parigi? Ma le grandi città c'è posto per tutti, no? Che sono implacabili con i poveri, come dire, sono molto dure con le persone sole, anche Parigi non scherza, no? L'immagine che si ha un po', molti quartieri sono sporchi, sono duri, eccetera, e quindi, però il bello, io sono sempre stato affascinato da New York, sono stato una sola volta, proprio perché sono quelle città che accolgono tutti, no? Magari ti accolgono anche male, però ti lasciano lo spazio per vivere. Io ho sempre sentito quest'area di libertà, naturalmente la mia visione, nel senso che se sempre chi viene da fuori cerca, no, si vede sempre di sotto le cose belle, si nasconde le cose brutte, no? Però ecco, io ho sempre sentito questa, venendo appunto da una cittadina, io ho fatto il liceo classico non so se che nessuno abbia scritto un libro sui licei classici e sui suicidi che hanno provocato i licei. Per me è stato il periodo più terribile della mia vita. Sono cascato male, no? Liceo, veramente dei professori pessimi come professori e molto chiusi, molto. No? E quindi, però io ho sentito talmente tante persone che l'hanno vissuta male, c'è proprio questo odio, tantissimi che poi vanno in facoltà scientifica talmente schifati, talmente scoraggiati, no? E poi questo fatto di proprio non incoraggiare le persone, non incoraggiare non sapere cogliere i lati belli e le possibilità delle persone, sembra veramente terribile come cosa. Insomma, io, per me è proprio se mi dici no, mi tanto come dire un po' quella esperienza quindi, che in realtà credo che invece sia comune a molte università, ho sentito di esperienze simili al liceo classico. Quindi quindi poi ho studiato a Firenze e poi a Trento sono tornato sempre come dicevo in questi periodi più brevi. E abbiamo detto Trento, Parigi, poi io avevo detto l'Algeria, ma tu ci dici che Algeria e Tunisia insieme in qualche modo, però c'è un movimento che si intitola Coieri Prodromi, che in realtà si svolge in Giappone. C'è questo viaggio che la coppia fa a Kyoto, che ha dei momenti esaltanti ma anche dei momenti molto spaesanti, a cominciare dalla casa in cui si trovano ospitati, quindi in realtà c'è un altro luogo che potrebbe essere un'occasione per la coppia per come dire, affrontare questa crisi, uscirne fuori, ma forse proprio lì si capisce che le cose non, nonostante questa comune passione per il Giappone, non so se è tua questa passione o è del narratore. No, è mia, anche lì sono stato una volta sola, appunto in questa cosa, quando mia madre è deceduta mi ha lasciato una piccola eredità con la quale ho potuto pagarmi questo viaggio in Giappone, che in realtà appunto molto triste perché eravamo alla fine della nostra relazione, che in realtà è stato anche molto molto molto bello, molto pacifico, però appena poi siamo tornati come racconto è esploso tutto. Però sono stato molto colpito da Kyoto, dai templi, dai giardini che ho trovato magnifici. Ecco, ci sono poi tanti episodi, ma io, come dicono i miei studenti, non voglio spoilerare tutto, perché vi invito ad acquistare il libro e a leggerlo, però ci sono veramente tanti episodi divertenti, ma anche altro un po' più in qualche modo drammatici, del dolore di questa coppia che ormai inesorabilmente va verso la separazione. E il sesto movimento si intitola Monitorare le parole. Siamo esseri dotati di parola e nelle relazioni d'amore le parole hanno un ruolo primordiale, forse anche un po' magico. Già all'inizio, senza esserne cosci, agiscono da detonatore per l'esplosione della passione. A ben guardare sono sovente considerazioni sul colore degli occhi e dei capelli, su un fiore, parole realistiche e quasi banali che non sembrano preludere a eruzioni irrazionali o decolli nella metafisica. Poi però ad un tratto si fanno pregnanti e potentissime, come nell'alchimia la pietra diventa oro. Dischiudono barriere e abissi, guidano a cime inesplorate. Una volta intronizzata la passione ghiotta di parole, anche questo è risaputo, come il fuoco si eccita agli spruzzi di benzina, sputando temibili lingue ardenti che ascendono verso l'infinito in un processo biochimico di autocatalizzazione non ancora ben chiarito, sebbene poeti e romanzieri lo indaghino in lungo e in largo, mettendo in campo altre parole ancora da secoli. Con il fluire del tempo le parole passano invece più spesso dall'altra parte della barricata e picconano la passione con le loro verità occulte, la loro indole materialista, la erodono alla base fino a farla ruzzolare nella polvere, e si ha l'impressione che più abbondano e meno incanto rimane, l'oro diventa pietra. Ecco, in questo libro le parole sono molto importanti, non solo perché una relazione ovviamente è fatta di parole, le parole possono creare equivoci, la parola insomma, il libro di Marie Cardinale, le parole per dirla, a volte mancano le parole per dire le cose, però anche in questo brano che ho appena letto c'è, così come nel titolo, un rimando alla tua formazione scientifica, fisica delle separazioni. Allora ti vorrei chiedere quanto ti ha aiutato nella scrittura questa formazione scientifica e quanto, diciamo, ti è stata utile nel avere un campo più largo, nella capacità di piegare le parole. Una premessa per me, quella del linguaggio, è proprio una cosa centrale, no? Che mi affascina, è un tema esplicito di moltissimi miei libri. Anche il penultimo romanzo era Sono Dio, è Dio che parla alla prima persona e che utilizza il linguaggio umano, nel quale si sente naturalmente a molto disagio, perché il linguaggio umano risente di tutte le limitazioni degli umani e non ha l'infinitezza del quale avrebbe bisogno Dio che lo utilizza. Quindi è tutto un gioco ironico sulle possibilità di espressione, no? nella lingua. Invece l'ultimo romanzo precedente a questo è un ragazzino sordo che impara la lingua, conosce solo la lingua dei segni e impara la lingua verbale con molte difficoltà e gioca molto con la lingua, proprio perché usa l'espressione per la prima volta, e quindi le vede con una freschezza che noi non abbiamo più, vede dei meccanismi e delle cose ridicole nella lingua che noi non ne vediamo. Tutto ciò per dire che per me la lingua è veramente fondamentale, perché credo veramente come direi che tutte le mie narrazioni fin dall'inizio proprio sono centrate in questo spazio molto profondo dove nasce la lingua dentro di noi, no? Noi passiamo tempo a spiegarci quello che succede attorno a noi, no? a cercare di capire gli altri, cercare di capire il mondo, e quindi mettiamo delle parole, no? Delle parole che però vengono dalla lingua, non sono nostre, quindi vengono anche con dei significati già precostituiti, con i quali spesso siamo a disagio, che non corrispondono esattamente a quello che vorremmo dire. Quindi assolutamente questo per me è un qualche cosa che mi preme tantissimo. E per quanto riguarda l'aspetto scientifico, diciamo, ma anche lì la vivo un po' schizofrenicamente, devo dire. Cioè, se io vedo un paesaggio, lo analizzo scientificamente, c'è cioè una deformazione, vedo un paesaggio, vedo le formazioni geologiche che ci sono sotto, vedo la vegetazione che c'è, gli do un nome, cioè veramente è una, come dire, lo scannerizzo dal punto di vista, con gli strumenti che ho lavorato molto sui paesaggi, quindi che posseggo, anche se magari non conosco tutte le conoscenze che avrebbe botanico o che avrebbe geologo, però insomma la cosa. E spesso ne parlo anche alla mia compagna, eccetera, però ecco questo e poi però bisogna di lasciare completamente questa visione qui per avere una visione più poetica, più libera. E devo confessare che la parte scientifica sono molto a mio agio, mi sono sempre sentito molto molto a mio agio, mi piace la precisione, mi piace la concisione, mi piace è un qualche cosa proprio dove mi sento a casa mia, però nello stesso tempo sento i limiti anche soffocanti, no? Di questa la scienza è una costruzione come un'altra che ci pone molte limitazioni, che fa finta che noi non esistiamo, no? che come abbiamo uno sguardo sul mondo come se noi non avessimo anche dei sensi, non fossero importanti nella nostra interpretazione, anche proprio nell'interpretazione scientifica, no? Sono tutto degli aspetti che la scienza tace, che adesso nell'ecologia stanno venendo fuori, chi sta osservando, chi sta parlando, no? Vabbè, ma per dire che anche lì, come dire, è un elemento importantissimo per me, però appunto non è l'unico. E il titolo Fisica delle separazioni otto movimenti richiama la scienza, il termine fisica, ma anche la musica, gli otto movimenti, no? fa richiama appunto i movimenti musicali, e la musica è quella, nel caso della scrittura, è quella delle parole. Volevo chiederti se anche la musica è qualcosa che è importante per te nella scrittura. Assolutamente sì, sì. Sì. Come dire, un libro si confeziona poi con l'editore, no? Il momento di finale, no? Non, come dire, anche nella copertina non la fa l'autore, no? Anche il titolo è sempre una lotta, perché sempre gli editori pensano di conoscere molto meglio degli scrittori come va il mondo, cosa ci vuole, quali sono gli editori giusti. E anche qui devo confessare che non è stato facile, e anche con quella scelta io di solito ho dei titoli, dei capitoli molto più poetici, no? Cioè, c'era un racconto, quello pubblicato da voi, si intitolava L'alito di treno elettrico, sì. No? Perché, mentre qui si è scelta una cosa, appunto volevamo stare un po' a mezzo tra l'aspetto più poetico e musicale suggerito da Movimenti, invece quello più analitico, no? In parte ironico della durezza dei titoli dei capitoli, però ecco, è anche quello un aspetto, io lavoro tantissimo sulla frase, sul ritmo, così, però in maniera completamente intuitiva, cioè non ho nessuna formazione di metrica, cioè proprio quindi però so che intuitivamente io lavoro veramente in maniera maniacale, però in un modo assolutamente così empirico, e dall'orecchio come un musicista jazz che non conosce la musica, diciamo, un po' così. Senti, prima di sentire se dal pubblico qualcuno vuole chiedere qualcosa, c'è una pagina che volevi leggere tu, se ti fa piacere? No, ma direi che hai letto abbondantemente, direi che no, perché se qualcuno mi ha qualche domanda. Va bene, allora sentiamo se, adesso non so se dal pubblico, tra il pubblico c'è qualcuno che ha già letto il libro, se invece da quello che abbiamo detto ha qualcosa, qualche curiosità o qualcosa che vuole chiederti o anche no, insomma non siete obbligati, però fa piacere quando una presentazione diventa anche nei limiti del possibile una conversazione, quindi da questo momento siete autorizzati. Io ho una domanda. Luisa. È stupida. Tu all'inizio hai accennato i piedi. Sì. A me è rimasta, se non sbaglio, dal racconto precedente la vicenda dei piedi. Però non so se la domanda abbia senso. Perché i piedi? Tutti i miei personaggi, a parte la difficoltà di parlare della quale accennavo prima, sono molto all'ascolto del proprio corpo, no? Come dire, noi facciamo finta di essere degli esseri razionali separati da un corpo, ma noi siamo corpo, no? E siamo sempre lì che ascoltiamo cosa ci dice il corpo, che siamo in balia di quello che ci fa soffrire, che ci fa. Qui quindi appunto nei personaggi spesso descrivo le sensazioni che provano, e appunto questa anche la persona in fondo è una finzione, no? Che noi siamo abituati a maneggiare, ma però una persona ha un corpo formato di parti molto molto molto diverse, no? Come dire, noi diamo sempre per scontato nella nostra parte razionale tutto delle costruzioni, no? Perché sappiamo che un individuo, ecco, però in realtà la nostra psiche non funziona così, no? Come è molto molto più scucita, molto più. E quindi per me sono sempre importantissimi questi aspetti pre-linguaggio, no? pre-categorizzazioni che noi diamo per scontato, no? per questi aspetti più primari legati proprio alle nostre sensazioni, alle nostre emozioni, appunto, prima che vengano sistematizzati. Il linguaggio è una grande macchina regolatrice, no? che orienta, perché è già tutto il caldo, quella cosa lì, il freddo, una cosa lì, no? Cioè, è già tutto organizzato, ma poi le nostre sensazioni sono molto più ricche, no? Sono contraddittorie, sono molto più. E quindi a me mi interessa appunto rimanere molto più vicini a questo aspetto più primario, diciamo. Prego, professoressa, dica. Vabbè, io ho perso un po' la prima parte, quindi magari è stato già detto, quindi mi scuso in partenza. Ma lei si è spostato anche tra vari luoghi. Adesso, se ho capito bene, il libro parla più che altro di momenti in cui si lasciano, si perdono delle persone. Ma perdere i luoghi non le ha causato altre sensazioni, cioè io... Anch'io sono una sradicata, quindi posso immaginare che anche lasciare i luoghi, staccarsi dai luoghi, possa creare Sì, assolutamente sì. Infatti appunto uno dei temi è il rapporto con la cittadina di origine che... Con la nostalgia, con tante emozioni anche contraddittorie, però appunto con quel senso del dispatrio, no? Questa bellissima parola di Meneghello, no? che noi abbiamo, credo che in Francia parlare di una narrativa del dispatrio, no? Ma adesso se si mette a elencare gli scrittori, no? Nostri che sono vissuti all'estero, cioè Calvino, lui è partito nel 69, è tornato, ha vissuto a Parigi è partito nel 67, fino all'80, no? Dopo è rientrato per motivi economici, perché c'era il periodo in cui la lira era molto, molto cosa. Però quel periodo centralissimo, così, Calvino l'ha passato all'estero, cioè, capito? L'ha passato in Francia, ma per dire. E anche gli scrittori attuali, veramente se facessi una lista degli scrittori che vivono, naturalmente tutto ciò mantenendo un legame di qualche tipo con la terra di origine. Cioè. Possiamo chiudere qua. L'invito ovviamente è quello di acquistare il libro, vedrete che non ne resterete deluse. È fatto bene a ricordare Io sono Dio, anche quello un romanzo molto bello, molto comico, che ti ha dato anche delle belle soddisfazioni, perché è stato tradotto negli Stati Uniti d'America e la traduzione mi pare che ha anche vinto un premio. Speriamo che anche questo possa darti altrettante soddisfazioni. Tu sei pronto anche a fare una dedica, immagino, a chi compra il libro, e quindi ci salutiamo qui. Grazie Giacomo, al prossimo libro. Grazie a tutti voi per essere stati qui con noi. Grazie a voi.